Altra Europa. 8 minuti dopo le 12, buon sabato da Federico Taddia. Eccoci qua con l'Altra Europa, come ogni settimana, per raccontare l'Europa delle storie, delle persone, delle possibilità e delle opportunità. Radio24.it, il nostro sito, da lì potrete trovare tutti i contributi extra e scaricare il podcast. E poi ci sono i social, @ Federico Taddia, oppure quelli di Radio 24, Twitter e Facebook, bacheche virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relative agli argomenti che andiamo a toccare. Tante voci, ma soprattutto tanti viaggi, come sempre. E si parte. Oggi partiamo a piedi. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. And I'm walking. Partiamo a piedi per uno strano viaggio che prenderà il via ad agosto, che vede protagonista Vienna Cammarota, coordinatrice regionale presso l'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, quindi una guida, una camminatrice che ha scelto, deciso all'età di 68 anni di ripercorrere a piedi il viaggio in Italia di Goethe. Attraverserà Monaco, Innsbruck, le Alpi bavaresi e poi tutti i luoghi toccati dallo scrittore tedesco in Italia 231 anni fa. Vienna Cammarota è qua con noi. Buongiorno Vienna. Buongiorno a tutti voi. Si sta preparando la partenza? Sì, mi sto preparando sia fisicamente che mentalmente. Infatti, perché quella è una doppia preparazione, no? C'è quella fisica importante, ma forse sì, già è allenata, poi c'è anche quella mentale. Come ci si prepara a un viaggio del genere? Ma diciamo che si parte prima dalla mente, perché comunque è un viaggio lunghissimo, è un viaggio in cui attraverserai dei luoghi a te sconosciuti e quindi devi prepararti, ma anche culturalmente, perché comunque devi essere preparata sui luoghi che visiterai e quindi a conoscenza anche di quello che potresti incontrare durante il cammino. Certo. Non è un viaggio veramente così, senza nessuna programmazione, vorrei chiarirlo bene. Perché in effetti sì, l'anno scorso l'ho fatto, ma ero nella mia terra e quindi per me era facilissimo, insomma, anche se non conoscevo i luoghi, non conoscevo i vari incontri che potevo avere, non avevo assolutamente nessun timore. Ma qui stiamo parlando della Boemia, stiamo parlando della Germania, dell'Austria, quindi devo prepararmi. Ma un viaggio lunghissimo significa quanto ha programmato più o meno? Un viaggio lunghissimo sarebbe più di 2000 chilometri e ho comunque stabilito che ci sarà circa 3 mesi, sì, in circa 3 mesi, quindi su una media di 27-28 chilometri al giorno. Certo, cosa va a cercare? Allora, è una bella domanda, a parte che io rifaccio un po' anzi lo rifaccio proprio partendo da quello che scrisse Goethe, quindi farò il viaggio di Goethe, sì, ma farò quel grand tour che fece lui. Fu un promotore dei viaggi che si fanno adesso, soltanto che adesso abbiamo dimenticato effettivamente che cos'è il grand tour, cioè che cosa spingeva una volta lo scrittore che faceva questi grand tour nel 1700? Era soprattutto un'inquietudine, una curiosità ai luoghi nuovi, e questo l'abbiamo dimenticato, perché per noi è molto facile adesso viaggiare, sì, cioè andare da una parte all'altra con un aereo, con un treno, visitarlo e poi andare via, ma abbiamo qualcosa che ci rimane dentro? A parte le bellezze monumentali e ambientali, no, perché dimentichiamo di parlare con la gente, dimentichiamo di assaporare quello che effettivamente era una volta la conoscenza vera e propria di qualsiasi cultura che possiamo parlare, anche gastronomica. Certo, attraverserà anche una parte d'Europa, ovviamente, e sarà un modo diverso anche per assaggiare, contaminarsi con le culture europee. Sì. Sì, attraverserò una parte dell'Europa e io sto portando avanti il discorso che ormai l'Europa è troppo presa dal consumismo e dimentica spesso quei valori sociali che ci hanno sempre resi veramente degli uomini. E attualmente si sta un po' dimenticando. Io voglio riscoprire di nuovo quei valori sociali che... non ci sono, o almeno sono un po' messi da parte. Certo, che invece dovrebbero essere anche la base probabilmente dei pensieri anche dei padri fondatori. Sarà possibile camminare realmente o virtualmente con lei? Sì, perché farò un sito sempre su Facebook, quindi ci sarà soltanto le comunicazioni li farò ogni sera. Io camminerò in effetti senza smartphone, quindi un telefonino normale per un vecchio telefonino che mi terrà in contatto con le persone che mi seguiranno da vicino e poi la sera comunicherò comunque le mie impressioni, i miei racconterò chi ho incontrato, che cosa è stato detto e che cosa ho fatto. Perfetto. Beh, tutto a parte, ciò... prego. Scusi, a parte che io il 25 adesso maggio faremo un incontro con la stampa internazionale e quindi mi presenterò per effettivamente raccontare un po' tutto. Perfetto, il 28 agosto è prevista la partenza, giusto? Sì, perfetto. Il 28 agosto. Ci ritroveremo sicuramente allora per seguire questo viaggio anche appunto. Mi farà piacere, grazie. Mi farete anche da sostegno. Buona preparazione Vienna, grazie per essere stata con noi, buon sabato. Grazie a voi. Noi adesso ci fermiamo, un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Il CDT cerca traduttori. Sei un traduttore e desideri intraprendere una nuova avventura professionale? Il Centro di Traduzione degli Organismi dell'Unione Europea, fondato nel 1994 a Lussemburgo, è alla ricerca di traduttori con ottima padronanza del tedesco, dell'inglese e di una lingua scelta tra francese e spagnolo. I candidati dovranno avere almeno un anno di esperienza nel campo della traduzione e aver conseguito un diploma di laurea in un paese europeo. Le candidature dovranno essere inviate entro il 29 maggio, seguendo le istruzioni riportate nella sezione Jobs del sito cdt.europa.eu/it. L'altra Europa. Can you hear the helicopters? I'm in New York. No need for sit in silence, you look me in the eye directly, you met me, I think it's Wednesday, the evening, the mess we're in and all. Si chiama Progetto Monica, è stato finanziato, sarà realizzato grazie a un finanziamento europeo di 370.000 euro, finanziamento che si è aggiudicato alla città di Torino per questo progetto che vuole dimostrare su larga scala le molteplici applicazioni delle tecnologie internet applicato al cosiddetto internet degli oggetti e al centro c'è il miglioramento della qualità della vita, quindi quando le nuove tecnologie sono proprio al servizio di una sana quotidianità. Di cosa si tratta? Che cos'è di fatto questo Monica? Lo chiediamo all'assessora all'innovazione del Comune di Torino, Paola Pisano. Buongiorno Pisano, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a voi, grazie. Chi è o che cos'è Monica? Che cos'è? Esatto. Monica è un progetto che abbiamo iniziato grazie a un fitto partenariato, e la città di Torino è uno dei 6 siti pilota insieme a Copenaghen, Bonn, Amburgo, Lione e Lid. Cosa faremo in questo progetto? Utilizzeremo appunto la tecnologia degli oggetti per iniziare a monitorare quelle che sono le questioni legate al nostro ambiente, in particolare legate al rumore e alla sicurezza. L'obiettivo è quello di monitorare eventi e movida all'interno del nostro territorio, sì, per riuscire a capire, a gestirle, a capire quali possono essere le problematiche e poi in un secondo momento riuscire a prevenire queste problematiche. Ovviamente la città di Torino ha iniziato un percorso con la nuova amministrazione basato sulla creazione di un'infrastruttura tecnologica tale per cui i dati sono messi al centro, proprio per riuscire a migliorare, a imparare a migliorare la nostra città. Ricordiamo che l'internet degli oggetti è quello che di fatto mette in connessione tra di loro elementi della città, la viabilità, la raccolta dati legata all'inquinamento, al rumore in questo caso, insomma cercare di mettere a sistema tutta questa immensa mole di dati, non basta coordinarli, poi bisogna anche saperli leggere, e credo che Monica vada proprio in questa direzione. Esatto, allora Monica ha un fitto partenariato che collaborerà con la città di Torino, siamo 28 partner in 9 paesi. La cosa interessante è che ovviamente noi su progetti così complessi ci muoviamo anche con l'ecosistema, quindi su questo progetto lavoreranno con noi Telecom Italia, ovviamente i partner della telefonia sono partner molto interessanti per quanto riguarda la gestione dei dati, l'Istituto Superiore Mario Boella, ma collaboreremo anche con la Kingston University per lo studio dell'immagine attraverso algoritmi di elaborazione immagini. E se posso dire ancora una parola, oltre a una collaborazione esterna ci sarà anche una collaborazione interna dei vari dipartimenti della città di Torino. Quindi collaboriamo con le relazioni internazionali e con la dottoressa Fortunata Armocida, che si occupa di gestire la progettualità europea, ci occuperemo collaboreremo con chi all'interno del comune gestisce l'ambiente, l'inquinamento acustico, e poi la polizia municipale con il nucleo di investigazioni scientifiche e tecnologiche guidato dal dottor Todesco. E questo insieme di competenze, con una forte competenza della polizia legata ai dati, fa sì che la città di Torino sia una città molto importante per un progetto del genere. Pisano, vabbè, lei è assessore all'innovazione, quindi questa è la sua materia, però quando un progetto del genere porta a guardare la propria città con occhi diversi? Sì, più che altro a conoscere la nostra città, perché noi ad oggi abbiamo una conoscenza che non è una conoscenza basata sul dato, quindi di fatto noi esattamente conosciamo la nostra città perché la viviamo, siamo dei torinesi. Un'altra cosa è invece avere un dato puntuale di quanto è l'inquinamento acustico, di qual è la sicurezza della nostra città, e poi utilizzare questi dati anche combinandolo con altri dati e magari scoprire che in delle zone di Torino dove la qualità, dove diciamo la componente acustica, l'inquinamento acustico è estremamente elevato, la performance e la qualità del lavoro dei nostri cittadini diminuisce. E così iniziare a unire dei dati che magari possono farci capire delle cose, e per la nostra amministrazione questo è molto importante, perché se noi abbiamo dei dati che ci fanno capire cosa sta succedendo nella nostra città, possiamo costruire delle policy che sono esattamente customizzate su Torino. Grazie davvero a Paola Pisano, assessore all'innovazione del Comune di Torino, buon lavoro. Grazie a voi, a presto. Europostit. European Green Week 2017. Siete persone attente all'ambiente e interessate allo sviluppo dell'economia green? Dal 29 maggio al 2 giugno in tutta Europa torna la European Green Week 2017, il più grande appuntamento annuale per dibattere e discutere di politica ambientale europea. in programma tantissime conferenze ed eventi dedicati al tema Green Jobs for a Greener Future. Il focus sarà sulle modalità attraverso cui l'Unione Europea sta creando nuovi mestieri nel campo della sostenibilità ambientale, per facilitare una crescita economica sostenibile e socialmente responsabile. Per trovare gli appuntamenti della settimana più vicini a voi, visitate il sito eugreenweek.eu. Is teaching the golden rule. American history and practical math. You study him hard, hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. You're cooking the lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. See, but the teacher don't know how mean she looks. Si chiama You Back to School, è un'iniziativa fortemente voluta dalla Commissione Europea che prevede che per un giorno i funzionari delle istituzioni europee tornino tra i banchi di scuola, là dove hanno studiato, per raccontare cos'è l'Europa, raccontare qual è stato il proprio percorso di avvicinamento alle istituzioni. Una bella iniziativa, credo, per insomma mettere in connessione, no, Bruxelles con il territorio, anche perché la narrazione dell'Europa passa soprattutto attraverso la narrazione delle persone. Ieri è stato il turno di Federico Esu, che lavora presso la DG Ricerca e Innovazione a Bruxelles, che è tornato nella sua scuola, la Gramsci a Maldi di Carmonia, per raccontare appunto il suo vissuto. Federico Esu qua con noi, ciao e benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, da dove partiamo? Da Bruxelles o da Carbonia? Partiamo da Bruxelles, così siamo minimamente istituzionali. Di cosa ti occupi? Allora, io sono quello che in inglese è definito legal officer, quindi un esperto giuridico fondamentalmente per il direttorato generale per la ricerca e l'innovazione. Quindi all'interno di questo direttorato io mi occupo di tutta la contrattualistica in materia di sovvenzioni che vengono appunto pagate ai centri di ricerca, alle università, alle piccole e medie imprese e anche agli appalti fondamentalmente per studi di qualsiasi tipo che la commissione ha bisogno all'interno del programma Horizon 2020, quindi Orizzonte 2020. Certo, guarda, proprio un attimo fa, se un attimo fa abbiamo parlato di un progetto che coinvolge Comune di Torino, che è proprio finanziato da un Horizon, quindi insomma conosciamo bene. Beh, sei insomma in un bel crocevia, no? Dove insomma passa il futuro, passano le possibilità e le opportunità, quelle di cui parliamo tante volte qui nel nostro programma, no? L'Europa che diventa leva di creatività, di innovazione, di impresa. No, decisamente. Lavorare per un direttorato come quello per la ricerca e l'innovazione è una fonte di grande soddisfazione, proprio perché insomma, lo scopo del mio lavoro è qualcosa che io reputo molto interessante. Ecco, per me sapere anche che sto lavorando per qualcosa di importante come la crescita a livello europeo in campo di ricerca e innovazione permette di svolgere il mio lavoro con grande soddisfazione, grande felicità. Certo, da lì passano tante storie, ma ieri la storia protagonista era la tua. Sei tornato nella tua scuola, com'è andata? È andata benissimo, o almeno spero. Dico benissimo perché ho visto che gli studenti erano particolarmente interessati, hanno fatto tantissime domande, soprattutto devo dire relative alla mia storia. Ovviamente era con me lo Europe Direct, che è lo sportello che rappresenta l'Unione Europea sul territorio, e loro sono stati coloro che hanno fornito informazioni agli studenti in circa le procedure per fare le domande Erasmus, quindi più nel concreto i progetti, le opportunità messe a disposizione degli studenti dal punto di vista appunto delle procedure per applicare e così via. Però ho notato che gli studenti facevano tante domande sulla mia storia, perché l'obiettivo anche di questa iniziativa è proprio di quello di dimostrare agli studenti che partendo da quei banchi di scuola, da quella stessa città, da quella stessa provincia e di conseguenza da quella stessa regione, qual è stato il percorso che io ho seguito per arrivare a lavorare nel mio caso per la Commissione Europea o per qualsiasi altra istituzione dell'Unione Europea. Adesso quanti anni hai Federico? Io 30 anni. Quindi sei, 30 anni. Sei giovanissimo, ma era lontana, cioè quando tu ti ricordi più o meno coetaneo dei ragazzi che hai incontrato, l'Europa era una cosa lontana, l'Europa, o già la vedevi lì come qualcosa di tangibile, sfiorabile, affrontabile? Sì, io ho iniziato a essere sempre più consapevole dell'Unione Europea quando durante i miei studi in giurisprudenza, al terzo anno, ricordo ancora, avevo studiato l'esame di diritto dell'Unione Europea, diritto internazionale, e lì avevo già, insomma, capito più o meno dal punto di vista almeno giuridico di che cosa si trattasse. Poi, unendo un po' la passione per le lingue con gli studi di giurisprudenza, avevo anche pian piano capito che per me era un'opzione, sarebbe stata quella di lavorare, appunto, di cercare almeno di entrare all'interno di un'istituzione europea. Però sì, dal punto di vista poi di che cosa l'Europa facesse effettivamente per me, era ancora qualcosa di lontano, che ho invece pian piano capito soltanto col tempo, ecco, con gli studi e con le esperienze all'estero. Capivo anche un po', mi mettevo un po' nei panni degli studenti quando mi facevano delle domande che a me potevano sembrare quasi ingenue, ma che allo stesso tempo erano totalmente ammissibili da parte di, appunto, ragazzi di 16-17 anni. Certo, insomma, credo che questo sia proprio il cuore, no, dell'iniziativa, proprio è nata per questo back to school, ma proprio per incentivare le giovani generazioni a guardare con occhio nuovo, diverso, più attivo anche l'Europa. Sì. Grazie davvero a Federico Esu, complimenti per il tuo percorso e bocca al lupo per la tua carriera. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Ci fermiamo, un attimo di pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. There I was at the immigration scene, shining and feeling clean. Could it be a sin? I got stopped by the immigration man. He said he doesn't know. Let me in, let me in. Immigration man, can I cross the line and pray I can stay another day? Let me in, immigration man, I won't tow your line today, I can't see it anyway. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Chiocciola Federico Taddia, Facebook e Twitter, lì tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. Radio24.it invece il nostro sito per i contributi extra e per scaricare il podcast o riascoltare anche subito terminata appunto l'orario, la puntata. Si va a Cannes, c'è il festival del cinema, c'è tanta Europa e ci sono anche tanti ragionamenti, tante connessioni, tante emozioni, tante suggestioni che ci racconta la nostra collega del Sole 24 Ore, della domenica del Sole 24 Ore, Cristina Batocletti. Ciao Cristina. Ciao, buongiorno a tutti. Intanto la domanda è, che ne so, ma nella notte, in un momento di distrazione, c'è un paio di metri sul red carpet, li hai fatti? No, ti fanno la mattina prestissimo alle 8, quando vai alla prima proiezione delle 8:30 e sali esattamente la stessa tapis rouge che fanno le stelle del cinema, però alle 8 di mattina. E lì è il momento selfie o no? No, è il momento che corri perché purtroppo quest'anno c'è un allarme terrorismo molto forte, certo, per cui le code sono tante, quindi devi correre, se no inizia la proiezione, non ci sono salti. Ho capito, quindi insomma niente, era così, era per avere un momento anche che ci siamo persi. Allora, Cristina, come sta andando questo festival? Quali sono le impressioni dei primi giorni? Quali sono i temi importanti soprattutto? Allora, un festival bello perché ho visto bei film, pochi diciamo non rimarchevoli. E il tema portante forse è l'immigrazione, la diversità, la distanza dell'Europa da chi vede diverso, e poi anche l'infanzia. Ci sono vari film per bambini e per gli adulti che devono capire i bambini. Ah, che è non dico un nuovo filone, perché insomma ci sono tante esperienze. cambia proprio il modo di rivolgersi ai più piccoli? Hai visto cioè, nuove tendenze? Direi di sì, perché ci si rivolge a loro come se fossero degli adulti, quindi non c'è più come i film di Disney, i tre filoni per cui può guardarlo l'adulto e lo vede in un certo modo con i riferimenti cinematografici, il bambino in un altro, il bambino piccolo ancora in un altro. Diciamo che c'è una sorta di elevazione del bambino all'età adulta, si parla in questo Occhia, si parla Oxa, che dir si voglia, si parla della storia di una bambina che alleva un grande suino GM e non vuole più restituirlo alla multinazionale che gliel'ha dato in affidamento, quindi c'è una grande lotta con gli animalisti. Poi c'è Wonderstruck di Todd Hines, che racconta la stessa storia di due bambini, entrambi affetti da sordità, che cercano il loro padre, le loro radici, ma una nel 1927 e una nel 1977. E poi appunto c'è forte il tema dell'immigrazione, sicuramente. Anche con le geocontaminazioni artistiche diverse. Sei stato su un'installazione in mezzo al mare? Non so se l'hai provata. Allora, devo andarci domattina alle 9, perché è molto inflazionata e comporta comunque un impegno di tempo che vale circa 2 ore. Tu vieni portato via dal palais, dalla Croisette, con una macchina che ti porta via, diciamo, un'ora da Cannes. Entri in un luogo dove c'è riprodotto il muro tra il Messico e gli Stati Uniti, con un pezzo di muro vero. Questa è una installazione del regista Iñárritu, che sarà poi riprodotta alla Fondazione Prada in giugno, e tu veramente fai il migrante, cioè senti gli elicotteri sulla testa, devi togliere le scarpe e camminare in un deserto caldissimo. Ci sono stati alcuni colleghi che me l'hanno raccontato, e io domani proverò questa cosa, poi incontrerò il regista e quindi, a caldo delle emozioni provate sul campo, cercherò di fare un'intervista che non potrà essere naturalmente cinematografica. Ci sono nuovi linguaggi, perché il cinema può essere un'esperienza reale per entrare nella pelle dell'altro. Certo. Come sempre, protagonista anche il programma Europa Creativa Media, sono una ventina i film sostenuti quest'anno dall'Europa, giusto? Sì, esatto. Mm-hmm. Te ne racconterai uno, sì? se hai tempo, certo. Che è quello di Mondrusco, che è questo regista ungherese che aveva già fatto un film assolutamente visionario, che era, diciamo, White Dog, Sinfonia per Hagen, che raccontava la storia di una bambina con un cane. Per salvare questo cane entra tutto in un branco molto feroce o molto solidale, e ha cominciato a raccontare appunto il rapporto col diverso. Invece ora si mette nella pelle di un immigrato siriano che dall'Ungheria tenta di passare il confine con la Serbia, non ci riesce, viene preso dalla polizia, viene colpito da delle pallottole, ma invece di morire lievita e comincia, diciamo, a salire in cielo, e è una specie di angelo laico con e diciamo, il film non è piaciuto alla maggior parte della critica. Io ho trovato delle cose incredibili che mi hanno tenuto inchiodata, e comunque ti fa capire quanto noi siamo lontani da questi personaggi, assolutamente, da queste persone che vengono a chiedere accoglienza. So che dico una banalità, però il film veramente ti porta dentro la pelle loro, nel senso che a un certo punto rischiano di annegare perché sono su un barcone colpito dagli spari della polizia, poi corri nella foresta e a te sembra di essere con loro, non c'è storia. C'è il desiderio di raccontare questo tema dell'immigrazione, di cui si pensa di sapere tutto, poi in verità si sanno solo frammenti, però diventa una sorta di leva creativa proprio per trovare nuovi linguaggi, nuovi punti di vista per fotografare. Il cinema è uno strano animale, no? Che annusa. In realtà i registi non sanno bene neanche loro che cosa andranno a filmare della realtà, salvo che non facciano dei film storici, delle biografie o dei film tratti da romanzi. Quindi, poiché questo è il tema ricorrente di molti dei film presenti in concorso e non in concorso, vi ricordo che anche che è passato ieri un film italiano che ha avuto moltissimi applausi, che racconta la storia di un ragazzino di 14 anni che è nella comunità di Gioia Tauro, nella comunità Rom, una specie, sì, al confine tra il documentario e la storia. Insomma, una contaminazione, come dicevi tu prima, notevole. E come si intitola questo? A Ciambra. Dal titolo della comunità Rom. Mm-hmm. Comunque sicuramente a quello che si vede dal cinema, ogni 5 anni cambia un po' la tematica, si vede quali sono, diciamo, le istanze più urgenti della società. Diciamo, il problema è dei ragazzini che probabilmente sono abbandonati dalla società, perché c'è un mondo molto egoista e molto autoriferito, quello degli adulti che sono sempre connessi, pensano molto alla carriera, questo emerge, sì. E poi il tema dell'immigrato, certo, barra diverso, che assolutamente non è calcolato dalla società o viene respinto. Cristiana, un'ultima domanda, prima ci hai accennato, sì, appunto ai problemi di sicurezza, si respira un'aria nuova a Cannes e o in Francia, nel senso il dopo elezioni lo si percepisce anche, sì, anche lì? Sì, io direi di sì, non ho mai visto così tanta poca gente a Cannes. I controlli, lo dico, sono esasperati anche per i critici che prima di ottenere il badge per entrare dentro il Palazzo del Cinema devono fare una trafila molto lunga in internet che dura mesi, che vuol dire che testata sei, quante copie vendi, cioè ti riconoscono bene. E tra l'altro tra la gente vedo, ho visto poca gente, c'è gente che è spaventata perché temono ancora, ricordi l'attentato di Nizza, certo, dell'anno scorso. Per cui c'è un'aria molto meno festosa, forse c'è anche ci sono meno fondi, quindi meno produzioni, o le produzioni vengono in ranghi più ridotti, però meno gente che passa forse meno cinefili. A Cannes arrivava gente soltanto per vedere passare i propri miti sul tappeto rosso, poi c'erano i travestimenti, che si travestiva da Charlotte. Non ho visto Charlotte quest'anno, non ho visto Marilyn Monroe. E questo è significativo. E mi piace un po' perché sì, insomma c'è meno festa, se okay, posso dire. Grazie Cristina, ti lasciamo. Qual è il prossimo film? Cosa vai a vedere adesso? Allora, vado a vedere un film che riguarda la campagna di Trump, okay, è ispirato alla campagna di, sì, Trump, e poi stasera invece c'è Asana Vicious che aveva fatto quel magnifico film in bianco e nero muto, sì, racconta la storia di Godard, una storia d'amore con la sua attrice, mm-hmm, e modella 19enne, l'ha interpretato da Garrel. Insomma, c'è attesa, anche se mettono già le mani avanti la produzione, dice un film, una commedia, è come una commedia italiana. Insomma, sembra che ci siano già delle polemiche in Francia a toccare il mostro sacro del cinema. Buon lavoro e grazie Cristina Matocletti. Grazie a voi. 24 ore. Ciao, ciao, ciao, buona giornata. Ci fermiamo il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Premio giornalisti del Mediterraneo. Anche quest'anno torna nella sua 9ª edizione il Festival Giornalisti del Mediterraneo, che si svolgerà in 2 momenti. A Bari, dal 23 al 26 maggio, dove si parlerà di temi legati all'etica dell'informazione e dell'impegno civile, e ad Otranto, dal 5 al 9 settembre, dove si parlerà di Medio Oriente, ISIS e terrorismo. Come tutti gli anni, il festival sarà accompagnato dall'omonimo concorso destinato a giornalisti o aspiranti tali, diviso in 3 sezioni tematiche di interesse: terrorismo internazionale, diritti umani ed Europa, turismo e marketing territoriale. Tutti i giornalisti che volessero candidare articoli, reportage o inchieste dovranno farlo entro il 15 giugno seguendo le istruzioni riportate sul sito giornalistidelmediterraneo.it. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta L'altra Europa. Go down to the sea and tell me what it is that you wanna be. I say go down to the sea and tell me what it is that you wanna be. E chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa andando al mare, di fatto. Lo facciamo parlando di un importante progetto. E lo facciamo con Marina Lipitzer, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Marina. Buongiorno. Allora, il nome giusto è Emodnet? Esatto, sì. Emodnet, cioè l'osservatorio European Marine Observation and Data Network, è una rete europea di, che si occupa di gestione, archiviazione di tutti i dati. Scusi, sento malissimo. Non so come riusciamo comunque ugualmente a fare l'intervista, sì, ma sì. Scusa, sì, è un'iniziativa finanziata e sostenuta dalla Direzione Generale degli Affari e della Pesca. Riunisce in questo momento 26 paesi dell'Europa, ma anche esterni, Ucraina, Russia, Georgia e anche Israele. Certo, e qual è l'obiettivo comune? L'obiettivo comune è quello di mettere a sistema tutte le informazioni sull'ambiente marino in termini di contaminanti e soprattutto dei rifiuti di plastica in mare. Le direttive europee prevedono il raggiungimento del buono stato ambientale entro il 2020, quindi un obiettivo molto molto vicino. E per valutare lo stato dell'ambiente ovviamente abbiamo bisogno di informazioni, di dati, che al momento sono ancora distribuite in tanti istituti, in tanti centri di ricerca, agenzie per l'ambiente. E Modnet ha l'obiettivo di metterli tutti assieme e di integrarli, armonizzarli, in modo che lo stato dei mari europei venga misurato, diciamo, con lo stesso metro. Quindi dati che di fatto già esistono, già i singoli istituti di ricerca raccolgono ed elaborano, c'è bisogno di trovare un linguaggio comune, diciamo. Esatto, si tratta di usare le stesse unità di misura, ma lo stesso parametro proprio, misurare il cadmio in tutti i mari, per esempio. L'IPSTER, quali sono i dati più importanti attualmente da leggere, da interpretare? Sono quelli adesso relativi all'inquinamento, che però mi sembra una parola molto, molto generica forse. Qual è il vero allarme? Sì. Esatto, diciamo che l'obiettivo del progetto nuovo che è partito circa un mese fa è quello di fare lo stato di base dell'inquinamento da rifiuti, quindi dalle plastiche, sia quelle presenti sulle spiagge, sia quelle sui fondali marini, che purtroppo ci sono tantissimi rifiuti sui fondali marini, e le microplastiche, che invece sono presenti un po' dappertutto e di recente sono state trovate sia in ambienti incontaminati come l'Antartide o l'Artico. Quindi questi sono i campanelli d'allarme. Voi state già, immagino, conosciate un po' questi dati. Ho visto che il progetto va dal Mar Baltico, il Mar Nero, il Mar Mediterraneo, insomma, ha ampie zone d'acqua. Quali sono le... ci sono zone o aree più preoccupanti di altre? Sicuramente i bacini chiusi, come in particolare il Mar Baltico, il Mar Nero, ma anche il Mediterraneo, quelli con limitati ricambi con l'oceano aperto, sono quelli che sono collettori di tutte le sostanze che arrivano dalla terra, quindi tutti gli effetti delle attività umane a terra alla fine arrivano in mare. E in ambienti appunto semichiusi queste sostanze permangono più a lungo ed ecco che le conseguenze sull'ambiente possono essere più gravi. Certo. Il 2020 è vicinissimo, è praticamente domani. Intanto, secondo lei, sono stati stanziati abbastanza fondi per raggiungere obiettivi tangibili e ce la faremo? Questa è una domanda molto che richiede una risposta molto diplomatica. Diciamo che siamo sulla buona strada, sicuramente. C'è una grandissima volontà da tutti i nostri colleghi di arrivare ad avere una valutazione dell'ambiente, diciamo, coerente. Sì. Ci sono appunto, gli stanziamenti sono forti e l'importante è che siano continui, che non ci sia un'interruzione, perché abbiamo visto in diversi paesi con minori risorse che ci sono stati grandissime buchi, mancanze di dati nel tempo, ed ecco quindi difficile valutare l'effetto di attività antropiche che stanno crescendo. Certo. Se non abbiamo dei continui, non basta avere una fotografia oggi, bisogna averne una anche domani. Certo. Grazie a Vera Marina Lipister, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. Buon lavoro Marina, lei e tutto il suo team. Grazie, buona giornata. Buona giornata. E un grazie anche al mio team, Claudia Schiattone oggi in assistenza insieme a Valentina Ternullo e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. L'altra Europa è radio24.it, come sempre il nostro indirizzo di posta elettronica se volete contattare la redazione, oppure ci sono i social, Twitter e Facebook, in particolare il mio account lo conoscete, @ Federico Taddia. Ancora ciao, ancora buon sabato, ci si ritrova qua la prossima settimana. Ciao. L'altra Europa.